Sai che dicono che i sogni sono reali soltanto finché durano? Ma non si può dire lo stesso della vita. Molti di noi stanno lavorando alla mappatura del rapporto tra la mente e il corpo. Nei sogni ci chiamano onironauti. Onironauti. Onironauti. Onironauti. Onironauti. Esploratori del mondo dei sogni. Così, così.